Effetto Mondo. That the increase in the positive cases is due to increased testing. Does that account for the increase that we're seeing in those states? We do believe this is a real increase in cases because the percent positivities are going up. Eccoci qua, buongiorno Giulia. Ciao, benvenuta. Buongiorno. Allora, abbiamo, ecco. Sì, questo era un audio sì. di ieri, perché continuano sì. la task force continua a essere chiamata a dar conto di quello che sta facendo dal Congresso americano, e ieri abbiamo sentito, in questa, la prima voce era quella di un deputato del Partito Repubblicano che chiedeva all'ammiraglio Brad Giroir, che è un membro importante di questa task force sì. del coronavirus, è viceministro, potremmo dire viceministro della sanità, ma ci continuano a dire, e il riferimento è soprattutto al presidente Trump, che ci sono più casi perché facciamo più tamponi, e l'ammiraglio non può che rispondere: no, non è vero, non è così, ci sono questa relazione è controintuitivamente, come sappiamo, in realtà non c'entra nulla, cioè non sono correlati i due aumenti. L'aumento dei casi c'è perché esiste questo aumento dei contagi. E questo naturalmente il tema dell'aumento che continua, non si riesce ad arrivare al famoso appiattimento della curva, è il titolo del Washington Post, che, come faceva qualche giorno fa il New York Times, pubblica proprio la mappa degli Stati Uniti, e si vede come in tantissimi stati continuano a esserci degli aumenti a due cifre, tanto che, ed è la prima volta che uno stato lo fa in un modo così, il Texas ha reso obbligatorie le mascherine, ne parlano sia il Washington Post che il New York Times, perché ovviamente, come sappiamo, insomma, le competenze per questo tipo di imposizioni sono a livello locale, e il Texas, che è uno stato guidato da un governatore comunque repubblicano, infine ha deciso questo passo, come sappiamo, alla vigilia del, come abbiamo sentito anche per il fatto che le borse sono chiuse, del 4th of July. E per darvi un'idea, vengono sparati più fuochi d'artificio normalmente il 4 di luglio che nella notte di Capodanno, per dare un'idea di che importanza ha questa festa, quindi tante riunioni che dovranno per forza di cose non avvenire come si era programmato. L'agenda americana però è stata occupata anche dai dati sull'occupazione, a proposito, scusate il gioco di parole, importanti, no? Dati sì. importanti. Sì, se vuoi sentiamo 5 secondi di Donald sì. Trump, che ieri ha fatto alcune dichiarazioni, non ha parlato dei dati sulla pandemia, si è concentrato molto su quelli appunto arrivati ieri. Da una parte le richieste di disoccupazione e di sussidi per la disoccupazione, ma anche la creazione di nuovi posti di lavoro. Sentiamo 5 secondi di Donald Trump. I'd like to just announce the spectacular news for American workers. Dice appunto: vorrei annunciarvi i dati, in realtà li avevano dati l'Istituto di Statistica sul Lavoro, mm-hmm. però Luigi ve li annuncio, sono spectacular, sono fantastici. 4 e poi milioni li ha snocciolati 8, tutti. Sì. Sì, il problema naturalmente per noi è più difficile da capire, queste oscillazioni così rapide naturalmente ha a che fare certo. con la flessibilità del mercato certo. del lavoro americano, quindi bisogna poi andare a vedere che tipo di contratti sono stati riscritti, e soprattutto, ed è una cosa di cui non sempre si sente parlare da parte della Casa Bianca, il fatto che si tratta di contratti che non hanno un'assicurazione sanitaria, che non prevedono di essere pagati se si sta a casa per malattia, e quindi, visto che siamo in un momento ancora di pandemia conclamata, molti analisti, non per essere a tutti i costi pessimisti, però dicono in realtà a pandemia appunto ancora in corso, questo tipo di lavori sono estremamente precari e quindi non sono una garanzia di medio termine, ma di breve, comunque meglio che niente naturalmente. Assolutamente. Che cos'altro hai raccolto diciamo in primo piano per quanto riguarda i giornali internazionali? Sai, mi aspettavo di trovare sui quotidiani americani la notizia dell'arresto di questa signora che si chiama Ghislaine Maxwell, che è stata mm-hmm. arrestata negli Stati Uniti dall'FBI. Era una delle più strette collaboratrici di Jeffrey Epstein, l'uomo di Wall Street che poi si è ucciso in carcere ed era stato arrestato per le accuse pesantissime di violenza sessuale e pedofilia. Adesso si è sempre pensato che lei avesse avuto un ruolo nell'organizzare le feste, addirittura nel procacciare queste ragazze molto giovani, spesso minorenni, da qui l'accusa di pedofilia, per il suo capo, per Jeffrey Epstein, ma non c'erano mai state le prove. Adesso le prove ci sono, la notizia è su tutte le prime pagine dei giornali americani, perché come, dei giornali britannici, scusate, perché come sappiamo, anche il principe Andrew conosceva Jeffrey Epstein e addirittura è stato più volte accusato di aver partecipato ad alcune di queste feste. Lui ha sempre negato di non tanto di conoscerlo, di aver partecipato alle feste, anzi ha detto di essere stato suo ospite in una delle principesche ville di Epstein negli Stati Uniti, ma ha sempre detto di non Ma aver visto niente lei è di inglese, illecito. la Maxwell, è inglese o Lei è americana? di origine inglese, però viveva da moltissimo tempo negli Stati Uniti e a questo punto l'FBI ripropone la richiesta che aveva già fatto mesi fa che il principe Andrew vada negli Stati Uniti a deporre. Lui aveva detto di aver offerto una deposizione, poi c'è stato il lockdown che è diventato la scusa per qualsiasi cosa e adesso ti ripeto, fa impressione, c'è cioè la foto di Epstein che bacia in fronte questa signora che viene definita socialite, cioè una molto, che partecipa molto alla vita sociale, che partecipava molto alla vita sociale in questo caso di New York è su tutti i quotidiani britannici, oscura addirittura il fatto che tra 2 giorni c'è un allentamento molto deciso delle misure di quarantena, che ieri sono state annunciate, è stata annunciata la lista dei 40 paesi dove i britannici possono andare e dai quali si può Certo, arrivare senza necessario l'Italia obbligo di compresa. quarantena, quindi Italia compresa, quindi per dire fa molto effetto, insomma, è pur sempre un membro della famiglia reale e molto discusso anche perché sicuramente è stato un po' il cattivo ragazzo della famiglia reale, Assolutamente. quindi Giulia, invece, per quanto riguarda la Germania, mi segnali che non è passata inosservata una dichiarazione del ministro, del lavoro tedesco sul salario minimo. sì, il cosiddetto Grundrente che ha sempre fatto molto discutere in Germania perché gli esperimenti fatti in realtà mostrerebbero, come un po' accaduto da noi, che nel momento in cui si dà un salario di cittadinanza, un reddito di cittadinanza, si viene disincentivati a trovare una nuova occupazione. Poi in realtà comunque in Germania ha funzionato meglio, rispetto a noi. Anche qui dobbiamo poi vedere, valutare l'effetto appunto di questi 4 mesi di congelamento. Ma in ogni caso, Heil l'ha detto chiaramente, ha detto che sarà anche una priorità della Germania durante il semestre di presidenza europea e si ripropone anche il tema del salario minimo, che è, come sappiamo in Italia, è sempre stato preso con le pinze perché in Italia i salari vengono calcolati in un modo diverso, insomma una misura che vada bene per tutti i paesi non terrebbe conto delle diverse legislazioni locali sul lavoro. Credo che sarà un tema di cui discuteremo molto nei prossimi mesi. Saremo qua a farlo. Grazie Giulia Crivelli. È tutto per la puntata di oggi con Valeria Bernardi in regia, Laura Faggin in assistenza in diretta, Jacopo De Franchi in redazione. Da Alessio Maurizio l'auguro di una buona giornata e buon weekend. Ciao.